Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, anche se potremmo dire il tema di questa giornata economico-finanziaria, e mi riferisco chiaramente all'esito dell'incontro terminato ieri in serata tra il nostro ministro dell'economia Padoan e il commissario europeo Vestager sulla cosiddetta bad bank. Ormai, come avevamo già spiegato, non si chiama più bad bank perché sono tante bad bank, ma in realtà nemmeno con la formula originaria. Sono, come già anticipato nei giorni scorsi, delle società ad hoc che verranno create per far lì confluire, lo dico male ma poi avremo buona parte della puntata su questo, per far lì confluire la parte dei crediti inesigibili, che poi devono essere messi sul mercato, cioè venduti. Come vengono cartolarizzati, cioè impacchettati, trasformati, anche qui vado volutamente in maniera imprecisa, trasformati in obbligazioni di carattere senior, cioè quelle più affidabili, o invece mezzanino, oppure all'ultimo posto, diciamo quelle meno affidabili. E c'è, su una parte di queste obbligazioni, c'è la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti, però non nella formula in cui era apparsa all'inizio. Perché? Lo spiego e lo preciso. Perché proprio sulla garanzia della Cassa Depositi e Prestiti si era, o meglio, proprio sulle garanzie statali in generale, si erano bloccate le proposte italiane in questi mesi. Quindi il nodo non era la creazione di una società veicolo esterna alle banche. L'Europa non ha niente da dire se fai questo. Il problema era chi garantiva queste obbligazioni e come si sarebbe formato questo prezzo, perché è chiaro che se tu hai lo Stato dietro che garantisce, la banca può offrire un prezzo minore, o meglio un interesse minore, perché tanto sa che poi comunque c'è lo Stato che garantisce. Se invece lo Stato non garantisce, la banca deve offrire un prezzo più basso, ovvero un rendimento più alto, nel senso che se qualcuno vuole comprarla deve essere particolarmente invogliato. È un po' come avere una polizza assicurativa, diciamo. Se hai la polizza assicurativa ottieni un certo sconto, se si scopre che non hai la polizza assicurativa ti danno un altro prezzo invece. Avviene così anche nella vita di tutti noi. Pensate un po' come funzionano per esempio i premi sulle polizze assicurative. Allora, questo è il tema complessivamente. La reazione del mercato è uno di questi aspetti, perché oggi e nel frattempo i colloqui sulle banche popolari sono tre gli aspetti oggi: reazione del mercato, dettaglio di questo accordo e la reazione sulle banche popolari, non tanto perché questo riguardi solo o principalmente le banche popolari, quanto perché nel frattempo vanno avanti le ipotesi di fusione nel mondo delle popolari. Allora, andando con ordine e ricordando che 349-238-6666 è il numero per i vostri sms e per WhatsApp, nonché poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, segnalo che la borsa è negativa, e ne è negativa solo Milano praticamente in Europa, perché Parigi è invariata, Francoforte è invariata, Londra più 0,60, il Dow Jones negli Stati Uniti perde lo 0,70. È negativa Milano per le banche, nel senso che il Banco Popolare perde il 7,90%, Popolare Emilia Romagna il 4,70%, UbiBanca il 4%, come Unicredit, e poi ancora Pop Milano meno 2%. Di positivo c'è solo ST Microelectronics più 3,70%, Anima Holding più 1,1% come A2A, 0,90% rialzo di Poste Italiane, 0,70% di Snam, 0,60% di Tenaris, Enel Green Power, 0,30% di Enel e Telecom. Italia, allora subito i 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore, oggi, che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Alessandro Platerotti, che commenta la reazione di borsa, e in particolare dei titoli bancari ovviamente, dopo l'accordo raggiunto ieri a Bruxelles. Il I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Lo studente ha fatto del suo meglio per superare l'esame dell'Europa, ma il primo test con la borsa sul piano di soccorso pubblico per le banche italiane oberate dai prestiti in sofferenza non sembra aver convinto molto il mercato finanziario. Eccetto il Monte dei Paschi, che ha segnato un rialzo, quasi tutti i titoli bancari quotati a Piazza Affari sono andati nuovamente in picchiata, un segno evidente che per gli investitori di borsa l'idea delle bad bank italiane presentate dal governo e finora discusse a grandi linee con l'Europa non sono la panacea, ancora una volta, per risolvere i nodi del nostro credito. Per il mercato la cosa più importante da fare in questo momento è soprattutto una: snellire tutte le procedure per il recupero dei crediti che ancora sono nelle casseforti delle banche. Il motivo è semplice: le sofferenze aumentano, cioè i prestiti non riscossi aumentano, perché non è possibile o estremamente difficile recuperare in procedura civile le somme che sono dovute. Al contrario degli altri paesi dove sono state fatte delle bad bank, proprio la procedura snella sul piano del recupero dei crediti ha fatto la differenza sia nel risanare i bilanci delle banche, sia per rianimare i titoli delle stesse banche quotati in borsa. Insomma, non si può camminare su una sola gamba e certamente l'idea di una bad bank che mette delle garanzie pubbliche su delle obbligazioni che poi servono a finanziare l'acquisto dei crediti non solo è difficile da comprendere per la gente comune, ma anche per il mercato finanziario non sembra affatto risolutiva. Importante quindi è che il governo faccia il secondo passo, cioè metta in moto il secondo motore, che è quello di snellire le procedure sul fallimentare. Prima entrano i soldi a chi si devono, prima ritorna la certezza del diritto e soprattutto la fiducia nel paese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E allora vi arriveremo all'accordo, alle conseguenze, per quello che si capisce, non è che i dettagli siano tantissimi, però insomma qualcosa in più abbiamo e arriveremo anche all'ipotesi di fusione. Partiamo però come sempre con le altre notizie in breve, perché da un lato il petrolio oggi resta a $31 al barile, ma in tema di petrolio oggi c'è un rapporto del Fondo Monetario Internazionale sul Venezuela, che viene definita un'economia che si sta avviando verso una implosione con terribili conseguenze sociali. C'entra il prezzo del petrolio, il Venezuela esporta principalmente, non dico solamente per non essere rispettoso, ma esporta principalmente petrolio. Faccio notare che l'inflazione in Venezuela l'anno scorso è stata del 141,5% e il PIL ha fatto meno 7%. E poi sempre sul fronte internazionale c'è oggi sul Financial Times un articolo interessante, perché a firma del finanziere, colui che a suo tempo buttò la lira, la sterlina fuori dallo SME, ormai è storia, insomma, comunque chi si ricorda George Soros sa di cosa sto parlando, il quale sul Financial Times dice state attenti a fare una guerra alla valuta cinese. Nel senso che l'avvertimento all'uomo famoso è una risposta a un articolo che era uscito sul China Daily, nel senso che Soros, essendo ormai conosciuto come il grande manovratore delle valute, veniva accusato di essere colui il quale sta, non l'unico, ci mancherebbe, scommettendo su un ulteriore deprezzamento della valuta cinese. Passiamo alla Francia, dove, come hanno ricordato i nostri GR, Uber è stata condannata a pagare 1.200.000 euro di multa all'Unione Taxi. Non c'entra nulla, anche se la coincidenza è obiettivamente singolare, con gli scontri avvenuti ieri, il blocco delle strade, obiettivamente inaccettabile, comunque non lo pensi, gli scontri con la polizia dei tassisti francesi. È una decisione che era attesa e arriva forse nel giorno sbagliato per non essere maliziosi, e riguarda le direttive violate nel settore NCC, noleggio con conducente. Veniamo all'Italia. Oggi abbiamo collocato come Italia un bot a 6 mesi da 6 miliardi e mezzo di euro. Ha visto un rendimento medio negativo, quindi continui rendimenti negativi anche per i nostri bot a 6 mesi, rende meno 0,08, poca roba, però insomma dal punto di vista simbolico è sostanzialmente il fatto che restano rendimenti negativi sui bot a 6 mesi. E l'altra cosa importante è che le richieste erano molto forti, perché su 6 miliardi e mezzo di debito italiano a 6 mesi offerto attraverso i bot, le domande erano per 10 miliardi e mezzo. E a proposito dei conti pubblici, oggi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, non riguarda il tema le banche ancora, riguarda l'intervento di Padoan al Question Time alla Camera, ha detto: i conti pubblici italiani sono sotto controllo sia nel breve che nel medio e lungo periodo. Questa è una risposta indiretta a quel rilievo. Tutti i giornali hanno dato molta evidenza. A noi era sembrato abbastanza lapalissiano dire che un paese con un alto debito è più sensibile agli aumenti dei tassi di interesse, eventuali shock sulla eventuali recessioni improvvise. È ovvio, più è alto il tuo debito più sei sensibile a queste cose. Però insomma, Padoan oggi risponde in maniera indiretta al rilievo della Commissione Europea e aggiunge, cosa non da poco, che secondo il Ministro dell'Economia il debito pubblico italiano scenderà nei prossimi anni, anche nel caso in cui il PIL dovesse diminuire. Anche nei rapporti più pessimistici il rapporto debito-PIL è stimato in discesa. Persino nel caso di shock sulla crescita del PIL, che potrebbe, perfino se avessimo uno shock tale, da avere un tasso negativo dello 0,5% all'anno. Non è vero che il debito continuerà a crescere fino al 2026. Al contrario, il rapporto citato mostra come per l'Italia, nel cosiddetto scenario di riferimento, il debito pubblico su PIL, che è la grandezza rilevante, sia previsto diminuire a un tasso di quasi il 2% del PIL all'anno dal picco del 2015, pari, secondo le previsioni di autunno della Commissione europea, al 133% del PIL, al 130% nel 2017 sotto l'ipotesi di politiche invariate e quindi al 110% nel 2026. Andamenti simili sono evidenti in tutti gli altri scenari di simulazione, anche quelli più stringenti e pessimisti. Per esempio, nello scenario che assume l'aumento permanente di 100 punti base di rendimenti sui titoli in scadenza e di quelli di nuova emissione, il rapporto debito-PIL è previsto ridursi dal livello del 133% del 2015 al 117% nel 2026. Risultati non differenti si hanno nel caso di uno shock sulla crescita del PIL che assume una riduzione permanente del tasso di crescita di 0,5 punti percentuali all'anno. Altre istituzioni internazionali come il Fondo Monetario e l'OCSE confermano questa dinamica discendente del debito. I conti pubblici sono dunque sotto controllo sia nel breve che nel medio e nel lungo periodo. Grazie Ministro. Dai primi dati disponibili, il gettito dell'attività di contrasto all'evasione nell'anno 15 supererà i 14,2 miliardi di euro del 14. Le principali linee di intervento che il Governo ha avviato e si impegna a perseguire per i compiti di lotta all'evasione fiscale sono innanzitutto l'analisi del rischio e l'incrocio delle banche dati. L'attività di pianificazione strategica si fonda su una tempestiva e mirata analisi del rischio dei comportamenti dei contribuenti al fine di individuare elementi che possano indicare una propensione alla non compliance. A tal fine sono utilizzate le banche dati disponibili che anche nel 2016 continueranno da parte dell'Agenzia delle Entrate ad essere tempestivamente arricchite ed ampliate. Allora, altre notizie di questa giornata economico-finanziaria. Avete sentito nella parte finale dell'intervento di Padoan come il gettito della lotta all'evasione sia di oltre 14 miliardi nel 2014. Arriviamo all'accordo sulle sofferenze bancarie. Lo dico a chi sta scrivendo. Ancora due notizie sull'Italia. L'Istat oggi segnala un nuovo record nella fiducia dei consumatori, mentre cala la fiducia delle imprese. Il livello della fiducia dei consumatori è il livello più alto dall'inizio delle serie storiche 21 anni fa, a 118,9 punti, e subito twitta il nostro Presidente del Consiglio è la fiducia la nostra riforma più importante. Tutti gli indicatori ci dicono che in Italia sta tornando la fiducia. Oggi l'Istat addirittura certifica che la fiducia dei consumatori italiani è al top da 21 anni, avanti tutta l'Italia riparte. Nel frattempo è arrivato il via libera del Senato, ma l'avevamo ampiamente annunciato ieri, al decreto sull'ILVA. 157 voti favorevoli, 95 contrari, 3 gli astenuti. Terzo giorno di proteste a Genova nel frattempo per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Cornigliano iscritti alla FIOM, che manifestano a difesa dell'accordo di programma, quello firmato nel 2005. Sostanzialmente la FIOM teme che con la vendita di ILVA l'accordo venga disconosciuto, e hanno scioperato oggi, come avevamo annunciato anche noi ieri, su indicazione della FIOM, gli aderenti FIOM anche di altre industrie genovesi. Parleremo oggi anche di Fiat. Sono usciti infatti i dati sul 2015, l'utile netto è più 91% a 2 miliardi di euro e i risultati ben al di sopra del target, mentre scopriamo, tra virgolette, ma era abbastanza presumibile, che la Toyota è il nuovo leader mondiale delle auto, ha venduto l'anno scorso 10 milioni e 150 mila auto e quindi si conferma per il quarto anno di fila. Dicevo presumibile perché il grande concorrente era Volkswagen. Non c'è stato in Europa un grosso calo delle immatricolazioni, forse qualcosa in più in America, ma comunque Toyota conferma per il quarto anno consecutivo la leadership davanti a Volkswagen e General Motors. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, il numero per gli sms e anche per scrivere su WhatsApp. Partiamo dal primo tema: che cosa cambia con l'accordo e il piano su cui Bruxelles ha detto sì ieri per voce del commissario, appunto, che ne ha la delega, e mi riferisco a Margrethe Vestager, che è commissario alla concorrenza. Allora, vediamo un po' che cosa c'è dentro questo accordo e poi anche i commenti politici. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'editorialista del Sole 24 Ore, nonché economista e presidente dell'Accademia dei Lincei, Alberto Quadricurzio. Buonasera, professore. Pronto? Buonasera. Buonasera, adesso la sentiamo anche noi. Grazie anche al collega del Sole 24 Ore, Marco Ferrando, buonasera anche a lei. Buonasera. Anche a te, darti del lei, vabbè che sei importante, però buonasera anche a te, Marco. Allora, l'accordo ce lo spieghi tu. Prima di tutto partiamo però dal commento del vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, non per un motivo istituzionale, ma perché siccome Dombrovskis è sempre stato molto freddino con l'Italia, non è l'unico, Dijsselbloem era un altro. Vedere il commento di chi non è mai tenero con l'Italia, a mio avviso, è importante al di là del ruolo istituzionale che gli ricopre. We should use this moment of modest economic recovery in Europe. Dovremmo usare questo momento di ripresa economica moderata in Europa per affrontare le debolezze strutturali delle nostre economie e per renderle più forti. In questo contesto accogliamo con favore l'accordo raggiunto ieri sera dal commissario Vestager e dal ministro Padoan sui termini delle garanzie per sostenere le banche italiane nel gestire i crediti deteriorati. Le garanzie devono essere prezzate a condizioni di mercato, in modo che non costituiscano aiuti di Stato. Si tratta di un passo importante che, assieme ad altre riforme programmate dalle autorità italiane, migliorerà ulteriormente la capacità delle banche di riprendere a erogare i prestiti all'economia reale e migliorerà la crescita economica. Allora, poi verremo anche ai commenti di Padoan, del ministro, che ha detto che questo accordo non avrà e questa decisione non impatterà né sul deficit né sul debito. Però, professor Quadrocurzio, diciamo, vorrei un suo commento sulla, sul commento, mi piace gioco di parole, europeo, perché sappiamo che l'ostacolo era quello. Noi abbiamo proposto almeno tre versioni in questo anno e mezzo di Bad Bank. La vicenda è chiusa e diciamo, è importante che Dobrovolsky si reagisca così? Ma io penso che la dichiarazione è da prendere con soddisfazione, o quantomeno da prendere per il valore facciale che ha. E tuttavia ritengo anche che l'Europa, o meglio la Commissione europea, in questa lunga vicenda abbia ecceduto nell'esercizio di questa sovranità che configura ciò che è aiuto di Stato da ciò che non è aiuto di Stato, quantomeno perché nel passato la lettura dell'aiuto di Stato è stata largamente superata. È ben vero che adesso il passato è passato, anche dal punto di vista normativo, ma se ci fosse stata un filo di maggiore flessibilità sarebbe stata una buona scelta anche di coerenza sostanziale. Detto questo, il risultato, per quello che io capisca, anche se mi pare che molti dettagli devono essere precisati, è un risultato soddisfacente per due aspetti. Da un lato determinerà l'accelerazione di accorpamenti tra le banche che hanno grosse sofferenze e che non hanno dimensioni sufficienti per affrontare una società veicolo per smaltire le sofferenze e le partite deteriorate. E questo secondo me è un fatto importante. Il secondo elemento è che il meccanismo di pagamento della garanzia dovrebbe in qualche modo accelerare non la svendita di queste obbligazioni della società veicolo, ma accelerare l'interesse della società veicolo stessa a collocare a un destinatario finale i sottostanti delle obbligazioni della società veicolo. Poi quale sia il prezzo è difficile adesso perché... arriveremo anche alla parte, diciamo, più tecnica, e che riguarda però i correntisti delle banche e gli imprenditori che vogliono ottenere dei prestiti dalle banche, perché poi non dimentichiamoci che l'obiettivo finale non è solo dare una mano alle, anzi non è proprio dare una mano alle banche, perché se hai delle sofferenze. E poi c'è un dato interessante che oggi leggevo, come sono concentrate le sofferenze bancarie su pensate che 25 miliardi su 200 sono a carico di appena 579 soggetti, e qui c'è il famoso tema della governance, gli amici degli amici, gli amici del presidente, gli amici dei consiglieri, insomma la vicenda delle quattro banche e soprattutto della Popolare Etruria ci insegna molto, ma non è la prima volta, ahimè, che lo vediamo. Guardate nel Monte dei Paschi cosa è successo, guardate nel passato cosa è avvenuto anche per altri casi che noi abbiamo citato. Detto questo, restiamo un attimo sulla decisione. Lei dice: se l'Unione Europea avesse voluto essere coerente non nella forma, perché è cambiata la legge, sono cambiati i regolamenti, ma nella sostanza, perché è difficile anche sostenere che tu lasci alla Germania dare 247 miliardi al mondo bancario, alla Francia una cinquantina, alla Spagna tramite l'ISM per carità una sessantina, se poi arriviamo noi e per cifre veramente risibili rispetto a queste dici no, la garanzia della CDP potrebbe essere modificare a vantaggio della banca il prezzo, quindi fare pagare meno interessi alla banca e quindi avere un prezzo più alto, e quindi per me aiuto di Stato. Ecco, diciamo che appunto, si è svegliata in mezzo al bosco la Vestager, però qualcuno l'avrà anche baciata, nel senso metaforico del termine, se non ricordo male la favola della bella addormentata nel bosco, che vale per la Vestager ma vale anche per l'Europa. È un dormire selettivo, nel senso che quando si dorme più volentieri quando è la foresta nera che quando sono gli Appennini. Chi vuol capire capisce. Adesso mi fermo qua, meteo, pubblicità, poi chiedo a Marco Ferrano di raccontarci i dettagli, e vorrei anche un altro commento dal professor Quadrocurzio. Focus Economia. Si tratta di una garanzia che il Tesoro venderà agli operatori che ne faranno richiesta nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza. Lo Stato garantirà soltanto le tranche senior delle cartolarizzazioni, cioè quelle più sicure, che sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Non si potrà procedere al rimborso delle tranche più rischiose se non saranno prima state integralmente rimborsate le tranche senior garantite dallo Stato. Le garanzie possono essere richieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato, come riconosciuto anche dalla Commissione europea, che concorda sul fatto che lo schema non contempli aiuti di Stato. Il prezzo sarà crescente nel tempo, sia per tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata delle note, sia per introdurre nello schema un forte incentivo a recuperare velocemente i crediti. Lo Stato rilascerà la garanzia solo se i titoli avranno preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore all'investment grade da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE. Il rating sarà rilasciato applicando i criteri che le agenzie sono tenute ad osservare. Infine, la presenza della garanzia pubblica faciliterà il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze e non avrà impatti né sul debito pubblico né sul deficit. Allora, Marco Ferrando, abbiamo sentito cosa stava dicendo e cosa ha detto oggi anche in audizione il Ministro dell'Economia. Cerchiamo di spiegare in maniera molto semplice, però come vorrei un commento anche tuo, come ha fatto poco fa il professor Quadrocuzzo, che diceva: vabbè, ci hanno trattato diversamente, sarebbe stato meglio avere un po' più di coerenza sostanziale e non solo di applicazione della forma. Però a sto punto, aggiungo io, dovremmo esserci, chiudere questo capitolo che pesava su tutto il sistema italiano. Avremo quanti tipi di obbligazione e com'è cambiato il ruolo della cassa, depositi e prestiti, cioè delle garanzie dello Stato? Sì, dunque, sicuramente sul trattamento differenziato ci sarebbe molto da dire, anche perché non dimentichiamo che da anni ormai che dalla Commissione europea al Fondo monetario, insomma, tutti individuano e concordano nel dire che l'ingranaggio che blocca l'economia italiana sono il credito, in particolare il credito in sofferenza. Quindi, insomma, se queste sono le premesse, ci sarebbe probabilmente da lavorare di più sulle conseguenze. Dunque, alla fine l'accordo che è stato trovato ieri è sostanzialmente in linea con quello che avevamo anticipato nei giorni scorsi. È stato risolto la questione del prezzo, il prezzo della garanzia che le banche potranno comprare dallo Stato. E di fatto, così a vederla ex post, sembrava quasi forse banale, perché di fatto le singole società di cartolarizzazione dovranno preparare dei pacchetti di ABS, quindi titoli obbligazioni con un sottostante costituito dai crediti deteriorati, dovranno andare a un'agenzia di rating e farsi dare un rating. A quel punto, tanto più alto sarà il rating, tanto meno pagheranno la garanzia dello Stato, perché dal comunicato molto tecnico che ha diffuso oggi il Tesoro emerge che di fatto il prezzo della garanzia dello Stato sarà un rendimento analogo pari a quello di un CDS, un credit default swap, emesso da una società, una qualunque società con lo stesso livello di rating. Quindi in sostanza, tanto più alto, ripeto, è il rating della società di cartolarizzazione, tanto meno pagherà la garanzia dello Stato. Questo è un elemento positivo. Ecco, perché ci chiedono gli ascoltatori, questa assicurazione che pagano le banche, la chiamo assicurazione per far capire a tutti cosa vuol dire la garanzia pubblica della CDP, varrà per tutte le emissioni obbligazionarie, quindi quelle più buone, quelle senior, quelle con maggiori garanzie, più facili da collocare, perché è chiaro che se io ho un credito con Marco Ferrando e in cambio però ho ipotecato, adesso la dico molto molto banale per far capire a tutti, però ho come ipoteca sul suo credito quasi il 90% o addirittura il 110% perché ho l'immobile, è una garanzia facile, mica tanto, perché c'è tutto il tema del diritto civile in questo paese, però almeno la garanzia ce l'ho. Altra cosa, se Marco Ferrando fosse un piccolo imprenditore, un artigiano, un commerciante, qualcuno che ha avuto un fallimento aziendale, la società non c'è più e non avevo altre garanzie, lì diventa un credito molto più difficile, non esigibile comunque, ma molto più difficile da su cui trovare una garanzia. Allora, la garanzia della CDP pagata dalle banche, se la vogliono, avverrà a tutti i livelli? No, avverrà solo sui titoli meglio garantiti. E questo è come dire, apre un'incertezza che sicuramente le banche oggi hanno pagato sul mercato, perché il fatto che siano caduti quasi tutti i titoli bancari, oltre che per le questioni di risico, un significato ce l'ha. Di fatto lo Stato, è il motivo per cui Padoan anche diceva che il meccanismo che hanno studiato non avrà impatto sul bilancio pubblico, perché di fatto lo Stato va a garantire quello che con ogni probabilità tornerà indietro. Quindi questo fa sì che ciò che era probabilmente destinato a finire sul mercato a un prezzo più basso finirà ancora a un prezzo più basso. Il problema però sono le tranche junior e mezzanina, quindi quelle che evidentemente richiedono i tassi più elevati. E qui arriviamo alla nota dolente, professor Quadrocurzio, e ci colleghiamo anche alla borsa. Perché dice, vabbè, ma se l'Italia ha raggiunto l'accordo con Bruxelles finalmente, oggi avrebbero dovuto festeggiare tutte le borse. In realtà i cali sono stati pesantissimi: Banca Popolare meno 7,80, Popolare Emilia Romagna meno 4%, Ubibanca meno 3,20, Unicredit meno 3, più contenuto il calo sulla Popolare di Milano meno 1,50%. Sono scusatemi, soprattutto le banche popolari e quelle anche in vista di nozze, di matrimonio, a essere particolarmente vendute oggi. E il tema è quello che ricordava prima Marco Ferrando, a mio avviso, e cioè la parte più brutta di queste sofferenze non avrà la più brutta nel senso di difficilmente riscattabile, non avrà la garanzia della CDP. Secondo alcune stime, io non so se poi le banche che fanno queste stime abbiano un interesse nel fare stime particolarmente pesanti, perché la concorrenza c'è per tutti, ma Barclays dice: attenzione, la svalutazione sugli stock potrebbe scendere al 26% e un taglio ulteriore del 15%, quindi le banche italiane potrebbero dover accantonare dai 6 ai 28 miliardi, che detta così vuol dire qualunque cosa. 6 sono tanti ma ancora accettabili, 28 sono una cifra enorme. E ancora altre simulazioni ipotizzano una svalutazione fino al 20% dei crediti deteriorati. E quindi sottolineo che Unicredit, Monte dei Paschi e Banca Popolare avrebbero bisogno di nuovi aumenti di capitale, rispettivamente per 4 miliardi e mezzo, 4 miliardi e 200 milioni in Monte dei Paschi e 1 miliardo e mezzo il Banco Popolare. È questa la parte più debole dell'accordo, professore? Evidentemente questa è la valutazione che stanno dando i mercati attraverso la lettura dei prezzi delle banche che hanno i problemi ben sopra indicati. E dunque l'operatività di questo meccanismo è tutta da vedere, perché quali saranno i prezzi dei CDS che andranno ad essere applicati? Si dice in misura crescente. Sì. Ma teniamo conto di questo, e Intesa San Paolo, che è quella meglio piazzata, dei CDS con 80 punti base e Monte dei Paschi 500 punti base su 3 anni. E quindi non è un'operazione così banale, così semplice, così scorrevole, anche perché, come diceva bene prima Ferrando, si tratta solamente delle tranche senior delle cartolarizzazioni, perché altre non avranno alcuna copertura di garanzia. Quindi mi pare che sia un accordo che è molto molto ancora da approfondire prima di affermare che... Sì, diciamo, la borsa non l'ha preso bene. Io vorrei la borsa non l'ha preso bene. Vorrei chiedere a Marco Ferrando, è questo che pesa sulla borsa oggi? Nel senso che noi sappiamo che sulle banche che devono fondersi, oggi c'è stato un incontro anche questa mattina tra al Ministero dell'Economia, tra il numero uno di BPM, ossia Giuseppe Castagne, e il numero uno di UBI, Victor Massià, e assieme al Ministro dell'Economia Padoan. Non è un mistero, perché lo raccontiamo da mesi, che ci siano le varie ipotesi di nozze, quindi Banco Popolare di Milano con il Banco Popolare e Ubibanca con Monte dei Paschi, è un'ipotesi, c'è chi dice ménage à trois. Vabbè, insomma, al di là di questo, cosa ha pesato oggi? Sì, sicuramente ha pesato, il mercato ha capito che nell'accordo di ieri non c'è nessun regalo, quindi ogni banca, come lo diciamo anche d'altronde nei giorni scorsi, se la giocherà come può, e quindi tendenzialmente chi avrà come dire, il sottostante migliore, quindi i crediti meno deteriorati, o avrà particolare abilità nell'impacchettarli nel modo migliore, questa è una virtù, non è un vizio, probabilmente riuscirà a spuntare i prezzi migliori. Chi invece ha tanti crediti deteriorati e molto deteriorati faticherà. Bisogna dire una cosa però, che noi arriviamo da 10 giorni molto trafficati e anche per certi aspetti drammatici per le banche, 10 giorni in cui c'è stato un signore che è Mario Draghi, che ha detto che non ci saranno richieste a breve di accantonamenti sui crediti. Banche, sì. E questo non è un elemento irrilevante, perché dice che essenzialmente bisogna fare in fretta, ma non bisogna fare in frettissima. Pertanto è lecito sperare che lo smaltimento di queste sofferenze sia progressivo e quindi si riesca a innescare un circolo che può diventare virtuoso. Spiego a tutti, se tu hai a bilancio, allora già su 200 miliardi di sofferenze le banche devono ancora rettificare il valore per circa 85. Se tu però hai a bilancio una sofferenza, non so, appunto i famosi soldi che mi deve Marco Ferrando virtuali, io dico, ma mi deve 100.000 euro, in realtà io penso di recuperarne 80.000, metto una sofferenza di 20.000. Se però poi con il nuovo accordo si scopre che io dovrò cartolarizzare quella sofferenza in maniera diversa, cioè una parte sarà senior, metti 20.000 che Ferrando ha l'automobile, quella gliela posso prendere, 20.000 li recupero. Però i restanti 80.000 vanno nelle categorie più di qualità peggiore. È chiaro che io non posso più dire semplicemente che da Ferrando recupererò 80.000 euro su 100.000 e ne accantono e ne metto in perdita solo 20, perché dovrò dire ne recupero 20 sicuri, gli altri, siccome devo collocarli sul mercato a un prezzo più basso, probabilmente recupererò degli 80 mancanti, poniamo 40.000, e quindi devo aumentare le perdite o le sofferenze messe in bilancio. Ecco perché si dice poi potresti essere obbligato all'aumento di capitale, perché la banca centrale obbliga a un certo momento europea a fare gli aumenti di capitale quando c'è un certo rapporto tra il patrimonio e le perdite. Professor Codocurzio, un'ultima domanda per lei dopo il traffico. Focus Economia. Il primo decreto, gennaio 2015. Se volete mandare a casa questo governo perché il governo ha fatto il decreto sulle popolari, fatelo pure. Noi siamo orgogliosi di aver fatto una riforma che da 25 anni il Parlamento avrebbe dovuto fare e che fu tentata l'ultima volta dal ministro del Tesoro Ciampi e dal direttore generale del Tesoro Draghi. Questi sono i dati di fatto. Non c'è alternativa a questa reale constatazione. Quel decreto sulle popolari sarebbe stato, se fosse stato fatto alla fine degli anni 90, come Ciampi e Draghi avevano proposto, se fosse stato fatto allora, in tante parti d'Italia, a cominciare dal nord-est, che è il territorio più forte, che tira di più, avremmo evitato le scene di questi ultimi 15 anni in termini di contiguità tra sistema del credito e politica. Io rivendico a questo governo il fatto di aver portato un limite per mandare le popolari in borsa, perché per me il principio una testa un voto sul sistema del credito è sbagliato ed è giusto che ci sia mercato, trasparenza, e soprattutto è giusto che ci sia quel processo di fusione e aggregazioni che quel decreto ha liberato. Allora, così poco fa l'intervento del Presidente del Consiglio Matteo Renzi sulla mozione di sfiducia sul tema banche, e sappiamo di cosa stiamo parlando, le quattro banche. Allora, diciamola tutta, Renzi ha ragione nel rivendicare che andava fatto 25 anni fa la riforma delle popolari, e aggiungo io, perché ce ne siamo occupati per anni, la resistenza del mondo delle popolari, intesa come presidenti, amministratori delegati, consiglieri, politici locali, potentati locali, è stata enorme. Ci veniva sempre ripetuto che le banche popolari erano diverse perché erano legate col territorio. Sì, poi abbiamo capito come. Allora, ed era una balla, nel senso, era il modo per far comandare pochi. A questo punto è meglio che ti trasformi in SPA e tu stia sul mercato. Una cosa va detta però, aggiungendo al discorso, chiosando sul discorso del Presidente del Consiglio, si sarebbero evitati certi casi nel Nord-Est e anche certi casi in provincia di Arezzo. Perché insomma il tema poi lo ascolteremo, Renzi ha detto non ho paura strumentalizzazioni sull'Etruria. Vedremo cosa succederà al papà del ministro Boschi, perché insomma qua la situazione si aggrava. Uno prima sta nel CDA, poi vicepresidente, non può dire di non sapere. Quindi se vogliamo citare tutto, citiamo l'Est, Nord-Est, che vuol dire Veneto Banca e Popolare di Vicenza, ma citiamo anche la Popolare dell'Etruria e tutto ciò che ne consegue sulla compagine del governo. Professor Quadrocurzio, dopo l'accordo con Bruxelles, ha un minuto per rispondermi, arriveranno più facilmente i matrimoni tra i popolari? Io penso di sì, e comunque bisogna tenere presente che i problemi del sistema bancario italiano non riguardano solo le banche popolari. No, no, ma teniamo conto che il Monte dei Paschi di Siena, che dei problemi ne ha, non è una banca popolare. Assolutamente. Detto questo, vorrei segnalare due aspetti. Uno, credo che le aggregazioni saranno accelerate e questo credo sia un fatto molto positivo. Il secondo aspetto, che è stato indicato sia da lei che da Ferrando, è che una serie di crediti in sofferenza dentro le banche, partite deteriorate a maggior ragione, hanno fior di garanzie, ed ecco l'affermazione di Draghi molto molto opportuna: fretta sì, ma non tanta fretta, perché non vorrei che si sbattessero via dei valori, certo, cedendoli magari a qualche società di cartolarizzazione. Non svendiamo questi crediti, non svendiamo i crediti. Con la pistola alla tempia, se ho ben capito il suo ragionamento, anche perché Draghi non ti sta chiedendo subito di aumentare, di ricapitalizzare, quindi trovare denaro, cerca di venderli al miglior prezzo possibile per la banca, nel senso, quindi per i suoi azionisti oltre che correntisti. Grazie professor Alberto Quadrocurzio, al GR24, poi torniamo con Marco Ferrando anche sul tema, diciamo, delle quattro banche e delle quattro popolari. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà mai. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Focus Economia. Della mozione di sfiducia che questo decreto imponeva la trasformazione e la quotazione di Etruria. Vorrei segnalare che di tutte le banche interessate dal decreto di gennaio, l'unica banca che era già quotata era Etruria. Perché sia chiaro che su Etruria si sta giocando una partita del tutto comprensibile politicamente, ma totalmente slegata dalla realtà dei fatti. Si fa una battaglia politica che è comprensibile e legittima da parte delle opposizioni per motivi di strumentalizzazione politica alle quali noi siamo assolutamente abituati e che certo non ci fanno paura, ma se c'era per l'appunto l'unica banca, l'unica di tutte quelle che erano interessate, che era già sul mercato, quella era Etruria. Si afferma il principio, c'è un conflitto di interesse. Si afferma un principio, c'è stato un favoritismo. Io credo che su questi temi si debba avere il coraggio di guardarsi negli occhi e di dire la verità, perché uno può pensarla come vuole su tutto, ma di fronte all'accusa più infima e meschina che possa esservi, e cioè che c'è un trattamento diverso all'interno di un principio di legge che è quello per cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, bisogna avere il coraggio di guardare la realtà. Questo governo, signori del Senato, ha commissariato la Banca Etruria e come ha fatto con altre banche senza avere alcun riguardo ai nomi e ai cognomi di chi faceva parte di quel consiglio di amministrazione. Per noi non ci sono gli amici e gli amici degli amici e la dimostrazione sta nel fatto che Banca d'Italia ha sanzionato i familiari di alcuni, no, di un ministro e sta nel fatto altrettanto evidente e chiaro che non c'è stato neanche un solo avvenimento che possa far parlare qui dentro a qualcuno di un conflitto di interessi, né per il ministro Boschi né per nessun componente del governo. Fate pure la vostra polemica, ma non potete prendere a botte la realtà. La realtà è più grande delle vostre strumentalizzazioni. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, abbiamo sentito, Marco Ferrando, un passaggio dell'intervento del Presidente del Consiglio vista la mozione di sfiducia. Allora, qui ci stiamo spostando dalla prima ora in cui abbiamo analizzato l'accordo raggiunto ieri con Bruxelles e le conseguenze negative che può avere sulla parte peggiore di questi crediti inesigibili e quindi gli accantonamenti e quant'altro, sebbene Draghi abbia detto non vi chiederemo subito immediatamente di fare un aumento di capitale, con di fronte poi banche popolari e quindi un'accelerazione, lo riteneva anche il professor Quadro Curzio, un'accelerazione comunque del processo di fusione. Abbiamo detto che il governo fa bene a rivendicare che la legge è sua e che le resistenze le ha fatte il mondo dei popolari. Non è la quarta volta che faccio sentire Renzi, è un altro intervento di Renzi. Poi se lei non sopporta Renzi, lo dico a un ascoltatore, non ascolti, cosa devo fare? Io devo far ascoltare il Presidente del Consiglio su temi delicatissimi che si chiamano accordo delle banche, movimenti sulle banche popolari, fusioni e risposta al conflitto di interessi del ministro Boschi, ok? Se per lei queste non sono notizie, e ascolti la musica se non le va Renzi. Allora, torniamo a noi. Qui c'è, oltre alla fusione delle banche popolari, anche il tema di quello che è successo. A mio avviso, chiaro che Renzi deve difendere il governo, che deve fare, però è una difesa un po' debole perché confonde il tema delle responsabilità, così sarà contento chi dice che sono renziano. È una difesa debole perché confonde il tema della responsabilità con il tema dell'opportunità. E a mio avviso è una difesa sbagliata anche dal punto di vista della comunicazione. Continuare a dire noi non c'entriamo, è ovvio che non c'è nessun atto, altrimenti sarebbe scoppiato un disastro del governo a favore di Popolare Etruria. Ma è altrettanto vero che la figura del padre Boschi, salvo essere smentiti, ma da quello che sta uscendo, sembra una figura non marginale, cioè non si può rispondere ma la Boschi aveva 9.000 euro e basta, chi se ne frega delle azioni che va la Boschi. Qui c'è suo padre che prima è stato multato come membro del CDA, nonostante la multa della Banca d'Italia è stato ripreso come vicepresidente e in tutto questo, nonostante gli allarmi lanciati dalla Banca d'Italia, un po' in ritardo in alcuni casi, hanno continuato a fare quello che facevano prima. Il Presidente del Consiglio è troppo furbo per non capire che c'è un tema di opportunità oltre che di responsabilità giuridica, anche perché questo tema fu sollevato a suo tempo con la Cancellieri per la telefonata del figlio, con il Ministro Lupi per l'opportunità di dare un Rolex da parte di una persona che poteva essere una sua controparte al figlio. Ora, non è che l'opportunità si solleva solo per gli altri. Qui c'è un papà e un fratello, perché il fratello poi si occupava anche dei crediti, di un ministro che come linea difensiva ha solo detto sostanzialmente di mio padre mi fido, è una brava persona. Non c'è un rischio di avvitamento, Marco? Beh sì, un rischio di avvitamento c'è ed è un rischio grave perché il tema bancario, come dicevi tu prima, non è solo un tema politico ma un tema finanziario, ne va dei soldi di chi ha investito su queste banche e ce li ha tuttora investiti, ma anche dei soldi di chi è cliente di queste banche. Quindi effettivamente si sta scherzando col fuoco e io credo che quello che sta accadendo negli ultimi giorni, noi abbiamo banche che dall'oggi al domani perdono 8, 9, 10, 20% come è accaduto al Monte settimana scorsa, dovrebbe essere un po' un caveat, cioè stiamo veramente maneggiando la fiducia, forse proprio quello diceva Renzi prima, se ricordo bene, ma un conto è la fiducia nella politica, un conto è la fiducia anche nelle banche, che è un bene veramente primario perché l'economia continua a girare. Se si va a minare quel campo lì, effettivamente poi andare a raccogliere i cocci sarebbe veramente molto molto rischioso. Sì, ci stanno mettendo una mano anche le banche in questi mesi e anni, perché quando tu continui con la retorica le nostre banche sono solide, noi non abbiamo problemi, non siamo mica le banche americane d'affari, poi scopri che giustamente, tra virgolette, perché è crollata l'economia italiana, in parte anche ingiustamente, perché poi hai prestato i soldi in alcuni casi in maniera, tra virgolette, incomprensibile. Voglio ripetere il dato di prima, ci sono 25 miliardi di sofferenze a carico appena di 579 soggetti. Ora dubito che se io e te andiamo in banca e gli chiediamo un prestito senza grandi garanzie, ce lo danno. Comunque, bisogna avere altri canali. Detto questo, chiudiamo sull'ultimo aspetto, nel senso che la borsa oggi la faremo in maniera molto molto breve, ma chiudiamo sull'ultimo aspetto, le fusioni. Anche tu sei dell'idea che a questo punto vi sarà un'accelerazione, proprio perché alcune banche più deboli sul fronte dei crediti, delle sofferenze, scusami, sui crediti, potranno avere interesse nel mettersi assieme? Sì, tre motivi per cui è probabile che si acceleri nel processo. Il primo è che, come dicevamo prima, la borsa sta mettendo veramente alla corda le banche. L'anno scorso, 2015, è stato un buon anno. Questi primi 30 giorni del 2016 sono stati drammatici, per cui il tempo veramente, la pazienza del mercato è finita. Secondo, l'accordo di ieri sera, di cui abbiamo parlato prima, comunque fa un po' di chiarezza su quello che sarà a disposizione delle banche per risolvere un problema. Terzo, comunque il pricing anche della politica è fortissimo. Non dimentichiamo che Padoan, lo accennavamo prima, dopo una nottata trascorsa a Bruxelles con il commissario Vestager, prima di andare a rispondere alle domande dei deputati, questa mattina ha trovato il tempo di incontrare due amministratori delegati di banche, il che dimostra che evidentemente questo governo sta insistendo moltissimo perché si acceleri sulle fusioni. Sì, e questo sarà, però, come tu facevi notare, i cali di queste sedute vanno oltre il percorso di fusione. Cioè, se fossero dei cali solo dovuti a un inizio di due diligence, come si chiama in gergo, cioè io vado a valutare quanto vali tu, quanto valgo io e quanto varrà questo matrimonio, avrebbero altre logiche. Qua obiettivamente logiche ce ne sono poche. Vai Marco, al volo. Sì, è vero, dimostra che il mercato è scettico sulle banche, quindi devono fare qualcosa, dare un segnale. Quelle solide evidentemente devono farsi carico delle deboli, io così lo interpreterei. Allora, a chi mi scrive, ma lei dunque dov'è che lei risponde per quello che fa suo padre o suo fratello? Guardi, forse le sfugge un dettaglio, io non faccio il ministro e non c'è un caso politico, e non basta dire che uno esce poi dal Consiglio dei Ministri. Oppure decidiamo, ma io ci posso anche stare, che nessuno risponde mai per quello che fa il padre e il fratello, ma ci mancherebbe, e non c'è neanche un tema di opportunità politica, che è una cosa diversa dalla responsabilità giuridica, ci vogliamo capire su questo, penale o civile che sia, di opportunità politica. Però se decidiamo questo, vale per la Boschi, per Lupi, per la Cancellieri e anche per alcuni ministri del governo Berlusconi. Cioè decidiamo che i rapporti di parentela non contano mai quando fai ministro. Tutto qua, solo coerenza si chiede. Traffico. Focus Economia. Allora andiamo sulla borsa, ciò che resta del commento di borsa, visto che abbiamo parlato di banche anche in borsa per oltre un'ora, e poi i conti della Fiat. Al di là delle banche, oggi male, Jux Net-a-Porter meno 4,60%, poi vorrei un commento anche su Saipem, perché ho visto che oggi al netto di tutto c'è un ulteriore calo, e Finmeccanica. Eleonora Micheli di Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, per quanto riguarda Saipem, allora, è vero sì che le azioni hanno perso l'11%, mentre va avanti, ricordiamo, l'aumento di capitale che terminerà il prossimo 11 febbraio, però va notato che proprio sul finale invece i diritti legati all'aumento di capitale hanno invertito rotta e hanno alla fine guadagnato il 2,88%, peraltro i diritti ormai valgono più delle azioni, 2,1 euro contro 0,55 euro delle azioni. Finmeccanica invece è andata male, ha perso il 3,8%, risentendo delle prospettive abbastanza grigie per il settore degli elicotteri emessi da due produttori di elicotteri. Sappiamo che anche la stessa Finmeccanica produce elicotteri e quindi ne potrebbe pagare le conseguenze. Ancora, per quello che riguarda appunto Finmeccanica, tu citavi giustamente il caso. Tra i titoli più positivi invece c'è sicuramente ST Microelectronics, più 4,41%. Purtroppo, lo dico già prima di anticipare le critiche, il titolo cresce per una notizia non bella, mettiamola così. Sì, in effetti la società ha innanzitutto diffuso i conti dell'ultimo trimestre e quindi dell'intero 2015, che si sono chiusi con ricavi in calo del 6,8%, e anche l'utile alla fine è calato a 104 milioni di dollari con 329 milioni di dollari dell'anno precedente. I conti comunque sono risultati in linea con le attese del mercato, mercato che invece ha festeggiato la notizia che l'azienda chiuderà la divisione che produce set box e decoder, una divisione in forte perdita, decisione che porterà a sopprimere ben 1.400 posti di lavoro, ma il mercato ovviamente l'ha presa positivamente, in quanto questo porterà un miglioramento probabilmente dei conti del gruppo, che va a chiudere una divisione che negli ultimi anni ha sempre deluso e alla fine è stata in forte perdita. Ancora per quello che riguarda le generali, oggi sì, l'effetto greco c'è ancora, meno di ieri. Come l'ha chiamata qualcuno, la Grexit. L'unica Grexit che abbiamo visto finora è quella di Mario Greco, che va dalle generali al gruppo Zurich. Prego. Sì, in generale oggi ha di nuovo sofferto, anche se in verità poi ha arginato le perdite all'1,3%. Non piace agli analisti e al mercato il fatto che Mario Greco vada via, soprattutto perché ricordiamo che il manager aveva presentato la scorsa primavera il piano industriale al 2018, un piano industriale peraltro molto ambizioso e che a questo punto, lasciando ad aprile, non porterà a termine. Quindi si apre anche un periodo di incertezza e bisognerà vedere se il nuovo capo che arriverà a generale, che non si sa peraltro chi sia, poi rispetterà tutte le promesse anche sui dividendi che erano in crescita e quant'altro che aveva promesso Mario Greco. Mediobanca meno 1,5, perché la cito, perché non è il segreto di Pulcinella che Mario Greco se ne sarebbe andato per divergenze pesanti con Alberto Nagel, quindi con il numero di Mediobanca, azionista, su operazioni bancarie future. Comunque ST Microelectronics più 4,40 dicevamo, e poi Anima più 2,20, A2A più 1,60 come Tenaris, Telecom Italia più 1,30 come Poste Italiane, Enel più 1,20 come Mediaset, Monte dei Paschi più 1,1 come Enel Green Power e CNH Industrial più 1%. Grazie allora Michele di Radio Colli, Sole 24 Ore. Ultimo tema, i conti Fiat. Allora, ottimi i risultati diffusi oggi dalla Fiat. Ascoltiamo Marchion, è in inglese, ma insomma è proprio un flash. Dice: i risultati sono fenomenali. What I consider to be a phenomenal year for FCA. Difficile da tradurre. Comunque, Andrea Malan, buonasera. Buonasera a tutti. Fenomenali o no, vediamoli sti risultati, nel senso che più 91% l'utile netto del gruppo Fiat Chrysler, rettificato appunto, a 2 miliardi di euro, ben al di sopra dell'obiettivo. Come lo si è raggiunto? Chiaro che Fiat Chrysler ricorda anche la vendita di 4 milioni 600 mila veicoli complessivamente, il record della Jeep, del marchio Jeep, oltre 1.300.000 veicoli venduti, ma i motivi, se dovessi elencarli? Ma innanzitutto vorrei osservare che il titolo è andato molto in altalena oggi, titolo Fiat è balzato, diciamo, non è l'unico però. Su questa notizia, no, poi è risceso improvvisamente fino a meno 3%, quando in realtà gli analisti hanno visto due cose, gli investitori: uno, che l'utile netto vero poi alla fine è sceso perché ci sono stati una serie di accantonamenti negli Stati Uniti, soprattutto per riorganizzazione di stabilimenti, eccetera, per cui alla fine il bilancio finale è di un utile in calo. La seconda cosa è una certa prudenza sul 2016. Le previsioni per il 2016 sono per sostanzialmente un fatturato allineato a quello del 2015, un EBIT aggiustato lievemente superiore e un indebitamento ai livelli di fine 2015, quindi senza un ulteriore miglioramento dopo il miglioramento che invece c'è stato quest'anno. Forse questo ha indotto il mercato alla prudenza. Il titolo poi si è ripreso nel pomeriggio quando Marchionne ha annunciato, ha confermato per l'ennesima volta i target 2018, anzi li ha rivisti al rialzo. Anche qui ci sono state un po' di interpretazioni, perché alcuni dicono beh, li ha rivisti al rialzo perché il dollaro è aumentato di oltre il 20% dal 2014 ad adesso, quindi sappiamo che il gruppo Fiat fa i 2/3 delle vendite e il 90% degli utili negli Stati Uniti, quindi quando li traduciamo in euro, se il dollaro sale, si gonfiano. Comunque Marchionne ha voluto dare un'impressione assolutamente positiva, ha confermato le due cose che si attendevano, cioè un aumento dei target di Jeep per il 2018 da 1,9 milioni a 2 milioni di auto vendute e invece il rinvio del piano Alfa Romeo, che è comunque significativo. Diciamo, gli investimenti su Alfa rallentano negli anni 2017 e 2018, il piano verrà completato, assicurato, ma verrà completato solo nel 2020. Non ha però detto come tutto ciò impatterà sulle vendite di veicoli. Nel 2018 si è rifiutato di fornire una stima, ricordiamo che c'erano state un po' di polemiche in passato sul fatto che il piano prevedeva 7 milioni di auto, se sia realizzabile o meno. Lui ha detto: sapete cosa vi dico, non vi do più le nostre previsioni, tanto previsioni di questo tipo non le fornisce nessuno, non vedo perché dobbiamo fornirne noi, l'importante è che centriamo i risultati finanziari, e questo lo ha di nuovo ribadito. Allora, su questo fai bene a ricordare anche insomma, cosa hanno accantonato i risultati finanziari, non solo quelli del 2015. Ti chiederei un flash in 30 secondi, già vi facevi riferimento, ci sono anche alcune dichiarazioni sui modelli che riguardano noi più da vicino, certo la Jeep, ma anche l'Alfa Romeo, se ho ben visto, Fiat ritiene che entro il 2020, un po' più tardi per via della Cina, avrà fatto il completo rinnovamento della gamma? Sì, sì, quello, diciamo, gli 8 modelli di cui si era parlato nel 2014 sono la Giulia, che è stata presentata 7 mesi fa e la cui produzione inizierà, ha confermato Marchionne, a marzo. Dovremmo poterla acquistare, diciamo, entro il secondo trimestre di quest'anno. Poi un SUV Alfa, che arriverà con ogni probabilità all'inizio dell'anno prossimo, e al lato di questo ricordiamo la Maserati Levante, l'altro SUV di alta gamma, la cui produzione dovrebbe partire anch'essa quest'anno. Per quanto riguarda gli altri modelli Alfa, se ne parla appunto dal 2017 al 2020. Grazie Andrea Malan, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.